questa camera è più vuota che mai, e sono solo con più roba che mai. Aspetto che arrivi un amico, oh, ma sei curioso, il nome non te lo dico. È come me, tante claustrofobie, più fobie, più le tue, più le mie, le donne e le compagnie. Così l'accendo e stacco, è l'ultima e l'unica, quando la spiego scacco matto. Non è l'ultimo, l'unica che mi fotte, per lei ho ripato più di una notte. Con lei ho perso le rotte, grazie a lei ho perso più lotte. Non mi devi rincuorare, a me va tutto bene quando tutto va male. E mi vorresti salvare adesso, ma non la vedi che presto, oh. Non è mai alto il volume, sotto le lune con le cuffie d'un lume. Sono sotto tutte le lune, sei sveglio con me, allora abbiamo di una fissa in comune. Faccio romantico quando mi chiami perdente, alzo lo sguardo e vedo una stella cadente. Se studiassi sesso tantrico perlomeno scoperei di più e litigheremmo di meno. Dici per sentito dire, solo per rubare tempo e farti sentire, ma il tuo modo di dire è spesso degli altri. A rifarti ci vuole il doppio caldo a resettarti. Non mi devi rincuorare, a me va tutto bene quando tutto va male. Non mi rincuorare, attenzione, non lo voglio il premio di consolazione. Non mi devi rincuorare, a me va tutto bene quando tutto va male. Non mi devi rincuorare, a me va tutto bene quando tutto va male. Non mi devi rincuorare, a me va tutto bene quando tutto va male. E mi vorresti salvare adesso, ma non lo vedi che ancora presto. A me va tutto bene quando tutto va male. A me va tutto bene quando tutto va male. Va tutto bene quando tutto va male. E mi vorresti salvare adesso, ma non lo vedi che presto. Non mi devi rincuorare, a me va tutto bene quando tutto va male. E mi vorresti salvare adesso, che ho l'ispirazione del depresso. Senti un velo di tristezza nei testi scritti di getto, proietto immagini in cui ti rifletti. Se metto un altro beat manesco, mi chiudi in cameretta per spaccarti l'orecchio. Quando mi prende sembra tutto normale, rimando e rimangio ogni giorno più stanco. E ne parlo con chi mi sfogo di tanto in tanto, e a me me la racconto meglio di qualsiasi altro. E non mi chiedo nemmeno più come il tempo, e rimando e non ricordo manco l'argomento. Stai attento, se accesa la luce spia, piano B, devo cambiare strategia. Non mi devi rincuorare, a me va tutto bene quando tutto va male. Non mi devi rincuorare, a me va tutto bene quando tutto va male. Non mi devi rincuorare, a me va tutto bene quando tutto va male. E mi vorresti salvare adesso, ma non lo vedi che ancora presto. A me va tutto bene quando tutto va male. A me va tutto bene quando tutto va male. Mi devi rincuorare, no. A me va tutto bene quando tutto va male. Mi devi rincuorare, no. E mi vorresti salvare adesso, ma non lo vedi che è presto. No, no, no.